Focus Economia. Sei minuti, Focus Economia. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Inizia dunque un'altra puntata della nostra trasmissione. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Faremo il punto sulle misure anticrisi messe in campo dal governo. Altre ne arriveranno, lo abbiamo sentito dal GR appena concluso a conduzione di Sergio Nava. Quindi il governo è allo studio delle misure, questa volta dal lato dei consumi, quindi uno sconto per il cliente subito al momento dell'acquisto, che poi lo Stato rimborsa al negoziante entro un termine massimo di un mese. Quindi questa volta con il decreto di agosto si punta a rilanciare la parte della domanda, questo dopo aver fatto sin da marzo interventi, lasciamo perdere gli interventi in favore della cassa integrazione, ma soprattutto gli interventi a favore delle imprese. E di questo parleremo nel nostro primo approfondimento. A che punto è la salute delle imprese? Salute delle imprese che sappiamo si regge molto sulla liquidità, e quindi faremo il punto sullo stato di concessione della liquidità da parte del sistema del credito, dei cosiddetti prestiti garantiti da parte dello Stato. E poi parleremo dei mercati, la giornata di oggi e non solo, tra breve vedremo un primo assaggio di questi mercati, di come stanno andando, ma quello che oggi ci va di approfondire è capire come sta andando, come è andato luglio, per capire poi come potrà andare il mese di agosto, qual è la correlazione per esempio tra lo spread, i titoli di Stato e l'azionario. E poi parleremo anche del mercato delle auto, le immatricolazioni in aumento, e non poteva essere altrimenti visto il forte lockdown che c'è stato. Logicamente siamo a numeri molto lontani da quelli dello scorso anno, ma insomma abbiamo dei segnali molto precisi di controtendenza. Dicevamo quindi uno sguardo ai mercati, così molto velocemente poi, come sanno i fedeli ascoltatori di Focus Economia, ci sarà un approfondimento alle 17.30. In questo momento gli Stati Uniti, mercati più attivi perché hanno aperto da poco, il Dow Jones 0.32, tutti in positivo, Standard & Poor's 500 0.13, Nasdaq in questo momento è tornato in negativo, ma sostanzialmente siamo attorno alla parità. Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo Londra più 1,0,15%, Milano si contraddistingue per il suo più 1,12%, poi Francoforte meno 0,27%, Parigi più 0,33%. Quindi questo l'andamento al momento dei mercati. Per quanto riguarda il FTSE MIB, mi piace sempre andare a vedere i migliori e i peggiori, ve li cito velocemente. Abbiamo tra i migliori Telecom Italia, Intesa San Paolo, Leonardo, Unipol e Pirelli. Tra i peggiori Diasorin, Amplifon, Ricordati, Moncler e Prismian. Manca un dato importante, che è il rapporto tra spread e BTP, quindi con il Bund tedesco a 10 anni, in questo momento 157,5 punti, meno 2,53%. Andiamo a vedere anche i cambi, euro su dollaro 1,17539. Quindi questa è un po' la situazione per i mercati, che ritroveremo alle 17.30. Ieri abbiamo fatto subito una parentesi di finanza, ricordando le parole di Massiali, CEO di UBI Banca, che ieri ha salutato dicendo: lascio un gruppo solido, sappiamo la scalata di Intesa nei confronti di UBI. Allora oggi ha parlato il numero uno di Intesa San Paolo Messina, che dice: con UBI Banca realizziamo un campione nazionale in grado di competere con successo a livello europeo, saremo vicini o prossimi alla prima banca europea. E quindi questo a quanto ha detto quindi Carlo Messina. Gli analisti finanziari: ridurremo i crediti deteriorati, aggiunto, senza impatti sugli azionisti, e pagheremo dividendi elevati. Quindi questa è la nostra pillola di finanza che ci piace dare in apertura di trasmissione. Un altro aspetto, ieri abbiamo parlato molto del ponte di Genova, non ce lo siamo scordati, logicamente ieri c'è stata l'inaugurazione, molti si sono chiesti o forse siamo stati noi poco attenti a ricordarlo, quando effettivamente vi sarebbe stata la riapertura. Beh, insomma, sono le 17:11, tra circa un'ora passeranno i primi automezzi sul nuovo ponte San Giorgio, quindi un'ottima notizia per Genova, per quel nodo infrastrutturale che sappiamo quanto essere importante, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, riparleranno i colleghi di Effetto Notte Estate, Andrea Ferro, a partire dalle 18:30. Mi sembra che la nostra anticipazione sia stata abbastanza completa. Ringrazio anticipatamente Valeria Bernardi in regia e in assistenza al programma Maria Sole Lisciandro, e possiamo sicuramente passare alle nostre notizie in breve. Partiamo dalle notizie in breve, partiamo dall'oro e dal petrolio. Ricordo, per coloro che ci vogliono scrivere, il 349-238-6666, SMS e WhatsApp, e la diretta Facebook, oppure potete visitare il nostro sito radio24.it. Dicevamo delle materie prime, l'oro a meno 0,08%, a 1975,68 dollari l'oncia, il petrolio meno 1,54 a 40,38 dollari al barile. E per quanto riguarda l'economia internazionale, oggi occhi puntati sull'Argentina, perché il governo argentino ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con i creditori per la ristrutturazione di quasi 67 mila milioni di dollari di titoli del suo debito estero. In un comunicato congiunto del Ministero dell'Economia e di tre grandi consorzi di creditori, l'accordo viene definito un alleggerimento significativo del peso del debito. La Repubblica Argentina e i rappresentanti del gruppo ad hoc de Bonistas Argentinos, del Comité de Acreedores dell'Argentina e del gruppo de Bonistas, sostiene il comunicato ufficiale, sono giunti ad un accordo che permetterà ai membri dei tre gruppi di appoggiare la proposta di ristrutturazione del debito del paese latinoamericano. E per quanto riguarda l'aspetto internazionale, purtroppo anche oggi ci ritroviamo a fare un po' il bilancio degli effetti del Covid. In Argentina nuovo record giornaliero di morti, negli Stati Uniti altri 46.300 contagi e 530 decessi, in Germania, veniamo così in Europa, 870 nuovi contagi, questo in 24 ore. In Belgio è arrivata la seconda ondata. Tutto questo per dire che a parte il fronte sanitario, al quale tutti dobbiamo prestare molta attenzione, il Covid resta comunque un macigno sulla ripresa dell'economia di quella europea, ma anche del resto del mondo. E andiamo più alle notizie tecniche e economiche. A giugno è il quarto mese in cui le misure di contenimento per il Covid sono state largamente messe in atto dagli Stati membri. Parliamo dell'Europa, i prezzi alla produzione industriale sono saliti dello 0,7% sia nell'Eurozona che nell'intera Unione Europea rispetto al mese precedente. Lo stima Eurostat, precisando che a maggio i prezzi erano diminuiti dello 0,6%. EasyJet ha chiuso il trimestre aprile-giugno con un crollo dei ricavi del 99,6% a soli 7 milioni di sterline, una perdita prima delle tasse di 324,5 milioni, pari a circa 360 milioni di euro, che si confronta con l'utile di 174,2 milioni di sterline realizzato nello stesso periodo del 2019. A causa del lockdown scatenato dal Covid, la compagnia aerea, si legge in una nota, ha trasportato solo 110 317.000 passeggeri contro i 26,4 milioni dell'anno precedente. Questi sono numeri importanti degli effetti del Covid. Sappiamo questi giorni, ne abbiamo parlato ieri, dei problemi qualora fossero reintrodotte misure molto stringenti di distanziamento sui mezzi di trasporto. I treni ne sanno qualcosa, gli operatori del ferro nello scorso fine settimana. Per quanto riguarda gli aerei c'è molto timore che si possa tornare ad una sorta di distanziamento, mettendo in crisi le compagnie proprio in questo momento di grandi partenze per l'estate, quindi per le vacanze estive. E su questo discorso ci confortano i dati che arrivano dall'ENAV. A luglio è triplicato il traffico aereo rispetto a giugno, confermato il trend di crescita costante con previsioni positive anche per agosto. Lo rende noto l'ENAV, che comunica di aver gestito nel mese di luglio quasi il triplo dei voli rispetto a giugno, con oltre 75.200 movimenti per una media giornaliera pari a quasi 2.500 voli. E i 75.200 movimenti gestiti da ENAV a luglio sono suddivisi per il 46% in voli internazionali, il 24,6% in voli nazionali, arrivo e partenza su aeroporti italiani, e per il 29,3% in sorvoli, aerei che attraversano lo spazio aereo italiano senza scalo. Nel mese di luglio, rende ancora noto ENAV, è stato recuperato circa il 40% del traffico del 2019. Dicevamo in apertura del DL di agosto, nuove misure anticrisi da parte del governo, più rivolte sul lato della domanda, conto light al ristorante con un taglio del 20%, di fatto quindi uno sconto per il cliente subito anche al momento dell'acquisto. Per tutti gli acquisti fisici nei negozi sarebbe escluso in questo momento l'e-commerce, che è un settore che durante il lockdown sicuramente non ha patito, anzi ha visto i numeri crescere fortemente. Del ponte di Genova abbiamo detto, riapertura tra circa un'ora, ma l'aspetto che anche oggi ci interessa sottolineare è il rapporto del governo con Autostrade. Allora, per domani è prevista la messa a punto del grosso della concessione autostradale, lo ha detto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli in un'intervista a Omnibus. I tavoli sono due, spiega al MIT, stiamo riscrivendo la concessione autostradale alla luce di quello che è accaduto in Consiglio dei Ministri il 14 di luglio, del negoziato con Autostrade per l'Italia. Il tavolo di domani è sulla concessione, ma ascoltiamo l'intervento della De Micheli. I tavoli sono due. Noi al MIT stiamo riscrivendo la concessione autostradale alla luce di quello che è accaduto in Consiglio dei Ministri il 14 di luglio, del negoziato che abbiamo fatto con Autostrade per l'Italia. Il tavolo di domani mattina è sulla concessione, quindi tariffe, abbiamo i 3,4 miliardi da destinare a opere e a pedaggi, ci sono una serie di norme che consentono al Ministero, al Governo, al concedente di poter intervenire nelle attività che fanno i concessionari. Sì. E quindi quella concessione poi diventerà per molti aspetti un modello anche per le altre concessioni. Domani noi definiremo tutti gli aspetti per predisporci alla firma del cosiddetto atto aggiuntivo, che avverrà nell'arco di qualche giorno. Poi c'è la parte relativa al passaggio di proprietà, del quale il Ministero delle Infrastrutture, che è il concedente, non si occupa, perché c'è in corso un negoziato tra Cassa Depositi e Prestiti e Atlantia, che è l'azionista di Aspi, che sta andando avanti molto rapidamente sulla base di una serie di parametri che sono parametri di mercato, e che prevedono l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nella governance, quindi nella gestione diretta di Aspi, fino alla uscita definitiva di Atlantia, che avverrà nei prossimi mesi. I due tavoli sono separati e noi qui dal Ministero delle Infrastrutture ovviamente stiamo seguendo il tema della concessione. Oh. Beh, ieri lo avevamo detto, la De Micheli logicamente non può sbilanciarsi più di tanto sulle concessioni, il rapporto con Atlantia, Aspi, da parte del governo, Cassa Depositi e Prestiti, c'è ancora molta strada da percorrere e di fatto questo intervento della De Micheli ad Omnibus ce lo testimonia. Ma per quanto riguarda Genova, sì, è importante l'inaugurazione, oggi il primo passaggio degli autoveicoli sul Ponte San Giorgio, ma tutti gli operatori del settore chiedono la cosiddetta gronda, ovvero il raccordo autostradale che eviterebbe, se fatto proprio, di andare ad ingolfare comunque il capoluogo ligure. Sentiamo allora la De Micheli cosa ha detto sulla gronda. La gronda si fa nel cosiddetto PEF di cui sentiamo tanto parlare. Ci sono indicati tutti gli investimenti che Aspi dovrà fare nei prossimi anni e che quindi verranno poi remunerati a tariffa sulla base dell'attuale stato di avanzamento degli investimenti. In quel PEF ci sono le risorse per fare la gronda, il progetto esecutivo della gronda è qui presso il Ministero e, siccome è un progetto molto complicato, stiamo per chiudere l'approvazione del progetto esecutivo, perché i concessionari, quando fanno gli investimenti, devono passare dal Ministero per avere l'approvazione della progettazione. Quindi non c'è nessuna, diciamo, segreto. Inoltre segnalo che il Parlamento all'inizio di quest'anno, se non ricordo male, o alla fine del 2019, ha approvato una mozione all'unanimità affinché ad Aspi venisse detto di fare la gronda e quindi noi abbiamo anche realizzato nelle richieste che abbiamo fatto ad Aspi un mandato molto preciso del Parlamento italiano. E la ministra dei trasporti De Micheli ha parlato anche della polemica sul distanziamento sui treni. La De Micheli dice: il DPCM del 14 luglio, ricordiamo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha mai autorizzato il riempimento al 100%. Nel senso, fa capire la De Micheli, se poi questo è successo comunque non c'erano le autorizzazioni. Quindi l'ordinanza che arriva dal Ministero della Salute di rispettare il metro, il discorso, sintetizzo il ragionamento della De Micheli, non deve stupire. Allora, i grandi disagi si sono avuti nello scorso fine settimana soprattutto sulle frecce, quindi su Italo e su Trenitalia. Ieri abbiamo sentito il rappresentante di Italo, oggi andiamo ad ascoltare Marco Mancini, portavoce di Trenitalia, al microfono di Laura Bettini. Dal 25 giugno sono arrivate le prime ordinanze di alcune regioni, cito l'Emilia Romagna, cioè la Puglia, il Veneto, la Liguria, che hanno deciso di derogare da quel limite del 50% di riempimento massimo di un treno. Laddove un treno regionale percorra un itinerario che comprende due regioni che hanno misure diverse, noi ovviamente applichiamo quella più restrittiva. Abbiamo adottato un sistema dove i viaggiatori possono anche vedere il livello di riempimento dei treni. Allora, se il riempimento massimo deve essere il 50%, quando ci si avvicina a quel 50% i sistemi lo segnalano per inibire l'acquisto di quel treno. Trenitalia si è immediatamente messa al lavoro rispetto all'ordinanza del primo agosto per ridurre al minimo i disagi di cui si è parlato nei giorni scorsi. Noi stiamo di fatto riproteggendo tutti i nostri clienti, cioè trovando soluzioni alternative di viaggio su altri treni oppure su bus. E questa dunque la posizione di Trenitalia nella persona di Marco Mancini, portavoce di Trenitalia. Ci avviamo velocemente al nostro primo tema che riguarderà, lo ricordo, le misure anticrisi. Faremo un punto sulla liquidità alle imprese. Prima però un tema molto caro alla nostra trasmissione, ovvero come si riprenderà la scuola a settembre. Via libera allora in conferenza unificata al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza per la fascia 0-6 anni. Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre, con commenta la ministra Lucia Azzolina. In questo caso non stiamo parlando dei famosi banchi a rotelle, ma sicuramente il ministero saprà organizzare al meglio. Sentiamo velocemente, perché tanto sono una ventina di secondi, il vice ministro all'istruzione Anna Ascani. Abbiamo approvato le linee guida che ci permetteranno di riportare tutti i bambini da 0 a 6 anni nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia. Questa è la strada da perseguire, anche per fare in modo che dal 14 settembre nessuno studente perda neppure un'ora di lezione. La scuola deve essere la priorità assoluta del nostro governo. E la scuola dunque priorità assoluta del governo, ricorda il vice ministro all'istruzione Anna Ascani. È un tema questo che sicuramente ci porteremo fino ai primi di settembre. Allora, per il momento noi terminiamo qui le nostre notizie. In breve passiamo al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento che abbiamo titolato "Come procedono i prestiti garantiti dallo Stato". È un tema questo fondamentale, perché le imprese dopo il lockdown, la grossa crisi del lockdown, possono ripartire e stanno ripartendo solamente laddove c'è liquidità, perché la liquidità serve alle imprese, serve a tutta la filiera produttiva. Senza di questa si ferma un anello della catena e tutto il settore ne va in sofferenza. Noi ringraziamo per la sua partecipazione Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani. Buonasera Sileoni. Buonasera, grazie per l'invito. Sileoni, allora, innanzitutto un suo primo giudizio su come, ecco, lo stato di salute in questo momento del rapporto tra sistema del credito e imprese. Ma allora, negli ultimi due mesi c'è stato un certo riavvicinamento fra clienti e banche, e le banche hanno scontato nei primi mesi del Covid essenzialmente una pessima organizzazione da parte di chi doveva garantire poi questi prestiti, questi affidamenti. Tenga presente che oggi siamo arrivati a 938.000 domande per 64,3 miliardi di euro, ma il dato più importante non è tanto questo quanto su una platea di 4 milioni e mezzo di aventi diritto, soltanto il 20% delle imprese ha richiesto un prestito. Le stavo dicendo, la situazione è nettamente migliorata rispetto ad un recente passato e rispetto soprattutto all'inizio, quando dopo l'effetto annuncio del governo non ha avuto seguito concretamente, sia per qualche negligenza delle banche ma anche per molta negligenza sia da parte di un decreto molto farraginoso e per qualche inadempienza organizzativa di chi doveva garantire questi prestiti. Oggi la situazione, comunque, le dicevo, è nettamente migliorata. Rei sicuramente ricorderà quello che Draghi disse nel luglio del 2012, quando disse in inglese whatever it takes. Certo. Dovrebbe essere fatto tutto quello che è possibile fare. Ecco, oggi alle aziende manca questa certezza, questa chiara indicazione, e perché i finanziamenti a fondo perduto non sono arrivati. È arrivato qualche cosa per le partite IVA e niente, quasi niente, assolutamente niente per le imprese. E quindi tenga anche presente che la media di molte aziende in Italia è di 110.000 euro a testa per appunto per azienda come debito. Sì. E quindi insomma i prestiti sono stati raccolti soltanto da diretti interessati, soltanto per il 20% rispetto ai 4 milioni e mezzo di potenziali aventi diritto. Ecco Sileoni, gli argomenti sono tanti per un tema questo che interessa molto i nostri ascoltatori, allora approfitterei, ci fermiamo per il meteo e poi riprendiamo con una sfilza di domande. Focus Economia. 17:33 minuti, Focus Economia di nuovo insieme in studio di Vincenzo Miglietta. Stiamo dialogando con Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani. Stiamo parlando dei prestiti garantiti dallo Stato, ma anche i cosiddetti prestiti a fondo perduto. Sileoni, lei ci diceva poc'anzi di un iniziale diffidenza da parte delle imprese proprio a richiedere questi prestiti. Come mai, secondo lei? Ma allora, intanto le banche in generale, si dirige all'azienda, le aziende hanno come dire, vissuto l'incertezza, come d'altronde le banche, del periodo Covid. E quindi le faccio un esempio: le banche non sapevano quanto dovessero spendere in termini di gestione del Covid, e quindi anche per quanto riguarda i prestiti, questo è un argomento che ha avuto il suo peso. Le aziende, al contrario, avevano come propria ancora di salvezza questi prestiti fondamentali che avrebbero dovuto garantire le banche, ma c'era l'incognita, c'erano due incognite. Il primo, che non è stato mai chiaro se si doveva fare o non si doveva fare questa istruttoria sul fido richiesto. Sì. E quindi lì ci sono voluti dei tempi standard per qualunque prestito, anche se i prestiti, questi diciamo minori da 25.000 euro in poi, fino a 25.000 euro, sono tempi che richiedono almeno 20-25 giorni lavorativi. Esatto. Poi tenga presente che c'era la maggior parte del personale, circa 50-60%, che lavorava in smart working, e quindi le persone, i lavoratori, le lavoratrici che erano allo sportello, oltre a doversi gestire il problema grosso del Covid e del contatto con la clientela, dovevano subirsi anche i ritardi dovuti al fatto che l'organizzazione interna di un'azienda era cambiata in maniera molto veloce. E quindi le banche all'inizio non sono state pronte a gestire contemporaneamente un numero così elevato di persone smart working rispetto alle persone che stavano e che lavoravano sedi. Nei sportelli bancari. Certo. Questo ha prodotto tutta una serie di inadempienze, che se a queste lei aggiunge il fatto che a loro volta le società di Stato che garantivano prestiti facevano anche loro le loro istruttorie per quanto riguarda i fidi, quindi i tempi si sono allungati molto. Sileoni, sembra che adesso la macchina sia abbastanza oliata e le aziende si rivolgono anche sempre di più alla quota per operazioni per importi superiori ai 30.000 euro, mentre prima veniva privilegiato il prestito garantito entro i 30.000 euro. C'è una spiegazione su questo? Secondo me c'è una spiegazione, nel senso che le grandi aziende hanno aspettato prima di chiedere prestiti per vedere che tipo prendeva il Covid, che piega prendeva il Covid rispetto allo stesso andamento dell'economia e dell'azienda, e poi si sono regolate rispetto all'importo che hanno poi chiesto e che avrebbero dovuto chiedere alle stesse banche. Quindi c'è stata una riflessione importante da parte delle medie e grandi imprese, questo per permettere poi di chiedere un prestito adeguato alla situazione del momento e alle crisi importanti purtroppo che le aziende medie e grandi, anche quelle piccole, hanno vissuto e stanno comunque vivendo. L'altro aspetto fondamentale che volevo rimarcare è che ci sono stati dei ritardi, anche il tema è stato dibattuto da voi ma anche da altri, ma soprattutto da voi, il fatto che mancava la cosiddetta lettera di manovra per i settori delle agenzie che una parte del governo non ha voluto concedere. Questo purtroppo esporrà i direttori di filiali, in caso di concessione abusiva del credito, in caso di bancarotta fraudolenta delle aziende che chiedono prestito, li potrebbe coinvolgere in qualche modo personalmente in assenza di questa lettera di manovra. Questo è stato un errore gravissimo, no? Perché dal punto di vista professionale ed umano espone i direttori delle agenzie a problemi che non sono e che non debbono essere loro. Certamente. Esatto. E soprattutto poi implica delle questioni, delle pesanti ricadute a livello anche penale, che poi saremo noi come sindacato costretti a condividere, perché non vorremmo mai e non vogliamo mai lasciare solo i nostri iscritti e gli stessi lavoratori bancari. Il governo, con un minimo di gesto di responsabilità in più e di sensibilità in più, avrebbe dovuto concedere questa lettera di manovra. Una parte del governo era d'accordo, un'altra parte invece a punta di piedi. Purtroppo questa lettera di manovra che avrebbe sollevato, no, da responsabilità, sì, che non certo competono ai direttori delle agenzie, non è mai arrivata. La conclusione qual è? Che anche questo argomento ha fatto perdere del tempo. Ecco, Sileone, abbiamo circa un minuto. Dal suo osservatorio privilegiato, che è quello anche del sindacato, qual è lo stato di salute del sistema del credito post-lockdown? Mi sembra di capire che è una macchina che si è messa in moto lentamente, ma adesso anche a livello proprio di dipendenti, smart working, il sistema del credito in Italia. Guardi, lo smart working in due battute viene imposto dalle aziende e provoca a vantaggio dell'azienda una riduzione dei costi complessivi pari al 7-8%, perché non vengono pagati i buoni pasto, non viene pagata la corrente elettrica, non viene pagata la mensa, non vengono pagate le missioni, non vengono pagati gli stessi trasferimenti, non vengono pagate le diarie, quindi c'è un risparmio complessivo enorme da parte delle aziende. Quando si dice, no, che i lavoratori stanno in smart working, i lavoratori è vero che stanno in smart working per il problema Covid, ma il risparmio economico da parte delle aziende è importantissimo, se no le aziende non manterrebbero ancora oggi i lavoratori smart working. Quando si dice nelle grandi città, no, che c'è un calo dei consumi rispetto a quanto fatturano oggi i ristoranti, sì, certo, i bar, è un calo dei consumi, è vero che c'è, ma il problema è che sono le grandi aziende, soprattutto nelle grandi città, che hanno imposto lo smart working soltanto per due motivi: per risparmiare e per imporre poi dei cambiamenti organizzativi a livello tecnologico che produrranno inevitabilmente dei tagli importanti a livello appunto di... Però se mi permette, Sileone, inevitabilmente in prima battuta c'è sicuramente l'interesse per la salute, no, dei lavoratori, proprio perché ancora non è chiaro se lei prende in considerazione le regole sul distanziamento sui mezzi pubblici a distanza di mesi dal picco del Covid. Ancora non si sa se dobbiamo osservare il metro o meno sui treni o sugli aerei. Mi rendo conto che anche le grandi aziende devono un attimino cautelarsi sotto questo aspetto. Ha ragione, il problema, guardi, che adesso tutti si lamentano del fatto che i lavoratori e le lavoratrici delle aziende private e pubbliche stanno in smart working. Io sottolineo che finché non è passata l'emergenza è giusto che stiano in smart working. Certo. Ma guardi che lo smart working fa risparmiare tantissimi soldi alle aziende, anche a quelle pubbliche. Invece adesso ogni problema viene scaricato su quei lavoratori che stanno sul smart working. E questo non mi sembra giusto, perché la convenienza vera ce l'hanno le aziende. Va bene. Tanto lo vedremo anche nei prossimi mesi, se magari anche sotto questo aspetto vi saranno delle novità. Io la ringrazio intanto. Grazie a Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani. Abbiamo cercato di approfondire il momento del credito, della liquidità verso le imprese. Cambiamo argomento e veniamo al nostro classico tema, che è quello dei mercati, la giornata in borsa. E giornata di borsa e dei mercati internazionali che affrontiamo grazie al contributo della nostra collega di Radio Cor, Flavia Carletti. Buon pomeriggio, Flavia. Buon pomeriggio a tutti. Ecco Flavia, allora, vedendo un po' gli indici di questo momento, vedo gli Stati Uniti tendenzialmente in positivo, l'Europa con segni un po' discordanti. Che giudizio possiamo dare? Sì, esattamente. Milano oggi è stata la migliore, ha chiuso con un più 1,2% in controtendenza rispetto per esempio a Francoforte, che è scesa dello 0,3%. Parigi è rimasta più indietro, ha fatto più 0,28%, e anche Madrid, diciamo, è stato in rialzo, ma più un rialzo più limitato, più 0,7%. Le borse questa mattina erano partite bene sullo slancio della chiusura di Wall Street positiva di ieri e soprattutto dei nuovi record segnati dal Nasdaq. Poi diciamo comparte un po' più di cautela, perché comunque i mercati guardano sempre al Covid, all'evoluzione della pandemia, e poi oggi sono arrivati una serie di trimestrali molto importanti di alcuni big europei, e per esempio sulla borsa di Francoforte ha pesato soprattutto i numeri di Bayer, che è uno dei più grossi gruppi del settore chimico farmaceutico a livello mondiale. Infatti il titolo è stato il peggiore del DAX 30, che è il segmento di riferimento della borsa di Francoforte, ha segnato la peggiore performance con un calo di oltre 2,5 punti percentuali, e questo un po' ha frenato appunto l'andamento di Francoforte. Quindi diciamo oggi le storie sono state legate più all'andamento dei singoli titoli che al quadro generale. Certamente. Milano appunto è stata la migliore proprio grazie alle performance di alcuni titoli che hanno completamente sovraperformato il mercato. Tra tutti citiamo Telecom Italia, che oggi è stata la migliore, ha fatto più 6,3%. Da una parte si aspettano i conti, oggi è in corso ancora il CDA per approvare i conti del secondo trimestre dell'anno, ma soprattutto c'è attesa perché il Consiglio di amministrazione dovrebbe esaminare l'offerta del fondo KKR che vuole entrare nella rete secondaria di Telecom, e questo secondo gli analisti è un segnale positivo perché potrebbe dare il via libera, in qualche modo dovrebbe dare un impulso anche alle negoziazioni sulla rete unica, che è un po' il tema diciamo che catalizza l'attenzione intorno a Telecom. Il titolo negli ultimi mesi si è mosso sempre molto e proprio legato a questa attesa se questa rete unica si farà o non si farà, insomma diciamo, è il tema un po' centrale dell'attenzione. Il fatto che oggi possa essere esaminata questa offerta e che quindi si possa diciamo in qualche modo avere l'ingresso di questo fondo, probabilmente sarà anche un ingresso di Fastweb con una parte, quindi insomma diciamo risico a livello di reti di telecomunicazioni, quindi diciamo l'attenzione è stata tutta rivolta a questo titolo. Quindi ecco Flavia, praticamente non c'è stato un settore che ha trainato di fatto il mercato, ma singoli titoli che hanno ottenuto performance positivi. Ricordavamo quindi Telecom più 5,5, così mi spiccano agli occhi Intesa e anche FCA. Sì, esatto, appunto, diciamo che a livello settoriale, se vogliamo proprio rintracciare qualcosa, in qualche modo a Milano sono andati molto bene gli industriali, i bancari e poi Telecom Italia. Tra i bancari appunto il migliore è stato Intesa San Paolo, che ha fatto più 5%, oggi Intesa ha presentato i risultati del primo semestre dell'anno, che sono stati superiori alle attese, ha fatto un utile di 2,6 miliardi di euro nel periodo e ha superato le stime sia per il semestre che per il secondo trimestre, anche questo chiuso in utile. E in più il gruppo ha confermato anche le previsioni per la fine dell'anno, anche escludendo l'aggregazione con UBI. Poi oggi c'è stata anche Messina che ha parlato agli analisti presentando questi risultati, ha detto appunto diciamo ormai il successo dell'OPAS su UBI è evidente, hanno superato il 91% della banca e praticamente con questa operazione Messina ha sottolineato che verrà creata la seconda banca per capitalizzazione nella zona euro e il sesto gruppo bancario europeo, quindi in qualche modo diciamo tra i risultati e comunque l'attesa per questa aggregazione il titolo è andato molto bene e anche UBI alla fine ne ha beneficiato perché ha chiuso con un più 2,7%, mentre invece su FCA ha fatto più 3,9%. Oggi è andato bene tutto il settore auto europeo, in questi giorni sono usciti i dati sulle immatricolazioni auto in tutta Europa e ieri in particolare quelli dell'Italia. FCA nonostante appunto anche il mese di luglio abbia segnato una flessione sia per il gruppo che per il mercato auto italiano, FCA ha fatto diciamo una performance migliore rispetto al mercato, ha perso di meno del mercato, sì. E in più secondo gli analisti, grazie al fatto che dal 1 agosto sono partiti gli incentivi che già hanno avuto una buona richiesta su 50 milioni, pare già circa 15 milioni di richieste, vedono un po' il peggio alle spalle. Perfetto. Mi sembra che per i mercati sia tutto. Grazie Flavia Carletti, collega di Radio Cor. Noi ci fermiamo. Focus Economia. Di nuovo insieme Focus Economia, abbiamo circa 10 minuti da ora, ma due argomenti molto importanti che quindi divideremo equamente. Parliamo ora dell'estate e delle borse. Abbiamo visto la giornata sui mercati internazionali, ma ora con il collega Moria Longo del Sole 24 Ore, che saluto. Ciao Moria. Ciao, buongiorno a tutti. Andiamo ad analizzare se vi sono delle connessioni tra i vari prodotti di investimento, e sicuramente esistono perché tu te ne intendi molto meglio di me di questo. In che chiave andiamo ad approfondire questo aspetto? Nel senso che a luglio vi è stato un certo trend per Piazza Affari che tu stesso Moria nei tuoi articoli hai definito inedito. Per cui, basandoci sul trend di luglio, cosa ci dobbiamo aspettare per agosto? Moria Longo. Allora, a luglio c'è stata una cosa che in Italia non accadeva da un po' di tempo, da quando cioè i titoli di Stato con la crisi dello spread dal 2011 sono diventati non più un investimento rifugio come per esempio i Bund tedeschi, ma un investimento a maggior rischio. Ciò che è accaduto a luglio è stato che Piazza Affari, la borsa di Milano, insieme a tutte le borse europee, ha perso quota. Tra l'altro Milano ha perso meno di altre, perché a luglio ha perso l'1,46% nell'intero mese, Parigi per esempio più del 3%, Londra più del 4%, quindi Milano è stata tra le migliori, però comunque ha perso terreno. Solitamente quando perde terreno la borsa vuol dire che c'è un'avversione al rischio, e i BTP italiani, che sono considerati titoli di Stato più rischiosi rispetto ad altri, solitamente sono venduti, certo. Anche perché quando le borse scendono e le banche italiane scendono, i BTP solitamente c'è un legame diretto tra l'andamento dei BTP e quello delle banche italiane. A luglio non c'è stato questo legame, anzi è avvenuto l'opposto. Mentre la borsa scendeva, perdeva terreno, i BTP sono stati invece molto acquistati, tant'è vero che i rendimenti sono scesi. Ricordo che quando il prezzo sale vuol dire che i rendimenti scendono, e nel mese di luglio sono passati dall'1,33% all'1,08% di fine luglio. Questo perché Piazza Affari, la borsa, è scesa perché è iniziata a luglio un po' di incertezza maggiore su i contagi da Covid, che stanno esplodendo in tutto il mondo, per fortuna non in Italia, ma in molte parti del mondo purtroppo sì. C'è stata una serie di dati economici che stanno dimostrando che l'impatto del lockdown è durissimo, è stato durissimo in moltissime economie, anche in quella dell'Eurozona, anzi soprattutto in quella dell'Eurozona, e quindi questo ha avuto un impatto non forte, ma ha avuto un impatto negativo sulle borse. Sui BTP, sui titoli di Stato, invece c'è stato un altro effetto, l'effetto diciamo del recovery fund, di questa trattativa che prima era attesa dai mercati e poi si è conclusa abbastanza positivamente, anche se con dei chiaroscuri, e questo ha sgravato i BTP da un peso. Perché? Perché avendo l'Italia potenzialmente questi oltre 200 miliardi da recovery fund, in parte come sovvenzioni, in parte come prestiti a tassi molto bassi, questo significa che nei prossimi anni l'Italia dovrà emettere un po' meno BTP di quelli che avrebbe emesso se non fossero arrivati i fondi europei, ammesso che arrivino tutti perfettamente. E quindi ci sarà minore offerta rispetto a quanto il mercato prevedeva, quindi minore offerta significa prezzi più alti. Non solo, grazie ai soldi del recovery fund, i tassi medi dell'indebitamento italiano si abbassano, perché appunto anche i prestiti del recovery fund hanno tassi molto più bassi di quelli che si può permettere l'Italia emettendo titoli di Stato. Questo riduce il costo medio del debito italiano e quindi aiuta anche diciamo il nostro debito pubblico. E in terzo luogo, se i soldi del recovery fund verranno usati in maniera positiva, in maniera utile per far ripartire gli investimenti e quindi anche l'economia, e l'economia se andasse meglio di come sarebbe andato senza il recovery fund, ovviamente sono tutti stessi sistemi, ma il mercato ragiona sul futuro, ecco, se tutto questo accadesse, allora anche il rapporto tra debito e PIL potrà in futuro essere un po' meno grave di come sarebbe stato senza questo fondo europeo. Quindi tutto questo ha dato un po' di aiuto ai nostri titoli di Stato che hanno ridotto i rendimenti. La tua domanda era sul futuro, cosa accadrà adesso? Ovviamente più di tanto i nostri rendimenti non possono scendere, perché comunque l'Italia è un paese con debito gigantesco ed è cresciuto tantissimo. Quindi io ho visto ieri c'era un sondaggio di Assium Forex insieme a Radio Core, il Sole 24 Ore, tra gli operatori si aspettano che ora lo spread tra BTP e Bund si stabilizzi intorno ai 150 punti base, quindi non scenderà più di tanto, e invece pensano che le borse potranno comunque salire ancora un po', anche perché i tassi sono bassi in tutto il mondo e quindi gli investitori vanno un po' sul mercato azionario. Questo quindi per il prossimo futuro, lo scenario che tu immagini, dicevamo relativo al recovery fund, ma Moria, tu ci confermi quanto i mercati siano sensibili a quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro, quindi l'esistenza stessa del recovery fund, possiamo dire, numeri alla mano, che è un fatto positivo. Sì, assolutamente, per il nostro debito pubblico sì, perché il recovery fund permette all'Italia di fare, potenzialmente, ripeto, tutti sono con i se tutto andrà come previsto, permette di fare investimenti nel settore green, della green economy, quindi ecologici diciamo, e nel settore digitale, che altrimenti non avrebbe fatto, permette di fare investimenti che avrebbe fatto, ma finanziandoli non più emettendo titoli di Stato, ma attraverso appunto questi certo. soldi che arrivano dall'Unione Europea, e quindi questo permette all'Italia di emettere un po' meno titoli di Stato rispetto a quanti ne avrebbe messi per far fronte anche all'emergenza del coronavirus senza il recovery fund. Quindi è una fonte alternativa di finanziamento dal punto di vista del mercato obbligazionario, Questo significa appunto che ci saranno in prospettiva un po' meno BTP di quelli che ci sarebbero stati senza. E questo è indubbiamente positivo. Bene. Per un paese molto indebitato come l'Italia, avere più fonti di raccolta, più fonti di finanziamento è assolutamente indispensabile. Abbiamo visto tutti negli anni passati come il mercato finanziario è capriccioso. Ecco, i fondi europei hanno altre problematiche forse, ma non quella di salire certo. e scendere come prezzi. Di questo fatto, è quindi... una fonte... diversa indubbiamente. E più stabile. Diversificare le fonti di finanziamento è importante e così non si è proprio legati a corda dritta ad una sola fonte di finanziamento con tutto quello che ne può conseguire. Grazie Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Noi ci avviamo rapidamente verso il nostro ultimo argomento che abbiamo titolato la crisi del mercato dell'auto. Sarà finita? E parliamo dunque del settore, del mercato dell'auto, lo facciamo con la collega del Sole 24 Ore, Filomena Greco, che saluto. Buon pomeriggio Filomena. Sì, buon pomeriggio a tutti voi. Allora Filomena, siamo a fare i conti con i dati sulle immatricolazioni, sì. Logicamente peggio del periodo del lockdown non si poteva fare, ma i numeri degli anni passati sono lontani. Sì, resta una crisi profonda per il mondo dell'auto, tanto in Italia quanto sul mercato europeo, anche se poi le ultime settimane hanno però dimostrato che con le giuste misure di incentivi si può effettivamente provare a invertire la rotta. È accaduto in Francia già dal mese scorso, potrebbe accadere in altri mercati, attesa questa inversione anche in Italia. Da inizio anno comunque in Italia le immatricolazioni sono calate di oltre il 40% e la previsione è che tra un terzo e un quarto del mercato, tanto in Italia quanto in Europa, quest'anno vada perso. È un risultato pesante che è frutto, come dicevi tu, di un mercato che si è azzerato a marzo e aprile, si è dimezzato a maggio, ha continuato a rallentare. La frenata naturalmente si è un po' alleggerita a luglio, il risultato di ieri sulle immatricolazioni italiane è stato del meno 11% rispetto a luglio 2019, quindi un po' più leggero. Però per vedere, come dicevamo, un'inversione di tendenza vera e propria servirà probabilmente aspettare i risultati di agosto del mese certo. in corso, è il primo mese in cui fino al 31 dicembre sono in vigore i bonus e gli incentivi, no? Inversione un po' allargata rispetto all'eco bonus che invece era stato introdotto dal governo già l'anno scorso per le auto a bassissime emissioni. Quindi bisogna capire qual è l'impatto e come potrà, diciamo, contenere il gap rispetto ai numeri del 2019 che erano già in leggera frenata rispetto a una ripresa che sul mercato dell'auto lenta era iniziata nel 2013 ma che comunque sostanzialmente c'era, ci si aspettava di superare la soglia dei 2 milioni di veicoli venduti l'anno scorso, così non è stato, quest'anno insomma il risultato sarà lontano. L'ultimo aggiornamento del Ministero dello Sviluppo Economico, volevo darvi questo dato, sì. sui 50 milioni, questa è la cifra che diciamo l'ultimo decreto ha messo a disposizione, il decreto di rilancio ha messo a disposizione sui bonus, dice che la quota residua su quei 50 milioni a pochi giorni di fatto dall'entrata in vigore è pari a 32 milioni, vuol dire che c'è stata una vera e propria corsa, c'è una corsa agli incentivi. Che sono premiano. Scattati, ricordiamolo, il primo di agosto, oggi è il 4, esatto, certo. Esatto, che vanno avanti fino al 31 di dicembre. E chi premiano, si sa? Sì, premiano le auto elettriche e le ibride come da programma, ma in realtà allargano un po' il campo, un poco, anche alle motorizzazioni tradizionali, alle Euro 6, sia benzina che diesel, a patto però che abbiano emissioni di CO2 fino a 110 grammi certo. per chilometro, con un prezzo di listino non superiore a 40.000, quindi una fetta piccola ma che comunque rientra. E si va da un massimo di 10.000 euro per le full elettriche fino a un minimo di 1.750 euro, comprensivi anche dei contributi per la rottamazione e di quanto poi ci mette anche il rivenditore, il dealer. No? Perché questo è un po'. Indubbiamente. Una parte la mette lo Stato, una parte la mette il dealer, esatto, certo. Esatto. Bisogna dire che le Euro 6, che le auto tradizionali, sono ancora la quota di mercato più alta, no? Nel senso che le ibride oggi pesano più o meno tra il 12 e il 13% delle vendite, le ricaricabili, quindi parliamo delle ibride plug-in, delle full sì. electric, quindi della, diciamo della frontiera più moderna delle auto a basso impatto ambientale, non superano, si avvicinano al 3% di mercato, quindi crescono in maniera esponenziale nei mesi, ma in realtà in termini di volumi sono ancora limitati, quindi è chiaro che serve non solo gli incentivi ma anche una infrastrutturazione ecco. importante, no? Ecco Filomena, in 30 secondi perché quelli che abbiamo a disposizione, sì. e sin qui abbiamo parlato dei modelli e degli incentivi, sì. ma quelle famose chiusure, crisi proprio di marchi importanti, a un certo momento si è ventilato che Renault potesse fare bancarotta, secondo te è acqua passata o c'è ancora il rischio che grandi operatori del settore possano restare impigliati in questa crisi? C'è un rischio rischio di ridimensionamento industriale, perché quella del mercato dell'auto è una crisi di mercato, ma è una crisi industriale, rischia di diventare una vera e propria crisi industriale. Adesso ci sono gli incentivi e c'è anche la cassa integrazione ancora in moltissimi paesi. È un po' presto, bisognerà aspettare l'inizio del 2021 per capire chi realmente ce la fa e quanto costerà in termini di occupazione questa batosta del Covid. Certo, grazie Filomena Greco, collega del Sole 24 Ore, grazie in regia Valeria Bernardi, in assistenza al programma Maria Sole Lisciandro, un saluto da Vincenzo Migliete, ci sentiamo domani.